Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Buonasera a tutti da Stefano Dainese, benvenuti all'appuntamento con Rock Wave. Ancora una volta questa sera abbiamo il piacere di offrirvi un intrattenimento, diciamo, con musica dal vivo, che come sapete è la nostra grande passione, avere qui musicisti e permettere loro di esprimersi e anche parlare un po' con loro e presentare i loro lavori. E in questo caso abbiamo un trio, anche se poi la band credo che abbia anche altri componenti a volte, va bene, comunque questa sera sono in tre, si chiamano En Passant, ho appena scoperto che va pronunciato in francese, così ho evitato la prima gaffe che già incombeva sulla mia testa, e abbiamo qui con noi Giulia, Michele ed Emanuele, benvenuti. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Ciao. Allora, loro sono in tour adesso come supporter, fra l'altro, di un grandissimo della musica indipendente, Micah P. Hinson, che i nostri ascoltatori conoscono bene, e stanno promuovendo l'album che si intitola More Than One in Number. E, allora, io direi, come facciamo sempre, andiamo con l'ascolto di una canzone dal disco, poi parleremo, poi ci suoneranno anche con l'ampia strumentazione che hanno portato. E allora il brano che ci presentano così come apertura si intitola Bats, Rats and Cats, cioè pipistrelli, topi e gatti. È un piccolo zoppo, magari ci spiegherai un po' qualcosa riguardo a questa canzone. Intanto ce l'ascoltiamo, benvenuti e buon ascolto. And traffic lights, farewell pollution, contamination, cues, institutions, rights and conventions. Here stars fill the sky, smells burst loud and I. I'll never leave this place, won't miss the human race. Leave me alone with. My life, cage of concrete, a runaway. Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 2320 033. Rock Wave. L'onda del rock. Dunque, abbiamo ascoltato questo primo brano, Bats, Rats and Cats. Abbiamo qui una band italiana con un nome francese e che canta canzoni in inglese. Esatto, ci piace. Gli strumenti molto. Sono tedeschi? Io italiano. Ok. Il suo credo sia giapponese, infatti. Questo è coreano, insomma. Ci piace molto questo cosmopolitismo. Sì, ho letto che tu hai vissuto anche a Parigi, per cui... Sì, ho vissuto a Parigi, a Londra, a Roma, adesso a Firenze, insomma, un po' di posti. Mi sono spostata da Palermo per, insomma, vagabondare. La band ha una sede fissa o siete una multinazionale? Sì. No, a Firenze assolutamente. Siamo, sì, la nostra base operativa è lì. Ok, abbastanza a metà strada, quindi comodissima. Vabbè, una domanda che sicuramente non ti ha fatto mai nessuno, voglio essere il primo: come mai hai scelto questo nome per la band? Dunque, il nome Un Passant viene da una poesia di Baudelaire che si chiama appunto A Un Passant, e il cui testo, insomma, io ho tradotto dal francese all'inglese, ed è stato l'ispirazione per un brano che poi appunto è finito anche nel disco, che si chiama per appunto Un Passant. Quindi sì, il nome è venuto fuori da lì, da questa figura, insomma, di cui parla Baudelaire, in cui non mi identifico, perché sarebbe, insomma, piuttosto presuntuoso dire sono la bella passante della poesia di Baudelaire. Però, insomma, questo concetto di viaggio, di movimento e vagabondaggio mi rappresenta molto, quindi... L'abbiamo già capito, in effetti, questo è il cambio di residenza continuo. Allora, io direi che adesso potremmo cominciare a sentire qualcosa dal vivo. Allora, come ho detto prima, abbiamo tre musicisti in studio: Giulia, che si accompagna con la chitarra acustica, poi abbiamo Michele si chiama contrabbasso? Un contrabbasso, sì. È un contrabbasso, fassino, la versione, diciamo, molto magra del contrabbasso, molto più comoda da trasportare. Qualche giorno fa avevamo Kissy McKenzie, i nostri ascoltatori forse l'hanno sentita, sabato sera, il suo contrabbassista aveva un contrabbasso di quelli grossi, e in effetti è un'altra, fa un'altra impressione. E poi abbiamo Emanuele, anche lui con un strano aggeggio che non so come chiamare, percussione elettronica. Sì, un drum synthesizer. Oh, ok, perfetto. Allora, sentiamo questi strumenti, il titolo della canzone. E a un passante, per l'appunto. Ah, perfetto. Allora, buon ascolto a tutti. Questo è Blu Radio Veneto. Abbiamo A Un Passante dal vivo. Rockway, l'onda del rock. Rowdy was the street. Shouting around me, tall thin inside, she walked in by, and I holding her a precious dress. Now she was nimble and noble, but she had legs of a statue, dark eyes like a thundering sky. That enchants the pleasures, the torment. Oh, that's what they dispensed. Sparkle in the toi qui le savais, ou toi qui le savais. I would have loved you, and you certainly knew it. You definitely knew it. Da-di-dum, da-di-dum, da-di-dum, da-di-dum, da-di-dum, da-di-dum, da-di-dum, da-di-dum, da-di-dum, da-di-dum, da-di-dum, da-di-dum, da-di-dum, da-di-dum, da-di-dum. Allora, questa era en passant, la traduzione in inglese di una poesia di Baudelaire, giusto? Esattamente. Un po' strano che un'italiana traduca in inglese una poesia francese. Non hai mai pensato di cantare in italiano? Certo, naturalmente ci ho pensato, però ecco, io penso che scrivere in inglese o scrivere in italiano siano due... capacità veramente diverse, scisse, e come suonare due strumenti diversi, d'altronde non sono trasferibili le capacità da una lingua all'altra. E io sono cresciuta con la musica in inglese, con gli autori anglosassoni, americani o appunto britannici, quindi mi viene del tutto naturale immaginare melodie ritmiche che si sposano con la lingua inglese, che insomma ho avuto modo di studiare, è stata sempre una delle mie passioni, ho vissuto a Londra anche per perfezionarla, e quindi mi viene naturale. Un giorno proverò l'altro strumento, probabilmente. Beh, ti capisco perfettamente, perché anch'io sono cresciuto con la musica inglese, quella italiana ho cominciato ad ascoltarla magari dopo. C'è stato tutto un momento in cui i musicisti italiani sono passati all'italiano, parlo dei musicisti diciamo indipendenti. La prima ondata New Wave italiana era cantata quasi solo in inglese, molte volte anche con dei grossi limiti di pronuncia, e poi invece c'è stato il momento che sono tutti passati all'italiano. È una cosa un po' che va a moda, invece nel tuo caso mi sembra il punto di capire che è una ragione ben c'è diversa. C'è una ragione musicale innanzitutto, quindi non ho nessun pregiudizio verso la musica in italiano, semplicemente sono cresciuta con altro, quindi proprio non ho una tradizione a cui posso fare riferimento dentro di me, nella mia cultura musicale, ho veramente pochi ascolti in italiano, quindi... Sicuramente rimedierò in futuro, chissà poi con quali risultati. Voi siete in tournée insieme, appunto, abbiamo detto, a Maika Pinson. Facciamo un po' di pubblicità a questo punto. Suonate domani sera, sì, a Bassano del Grappa al Teatro Raimondini, quindi siamo vicini. Ecco, appunto, lo diciamo anche per i nostri ascoltatori: un doppio appuntamento, perché anche Maika Pinson, naturalmente, merita la massima considerazione. Anche perché dal vivo poi un musicista che stupisce molto. Sì, è molto, molto diverso rispetto a quello che si può sentire su disco, dà proprio un'altra dimensione di sé Maika dal vivo, che è assolutamente interessantissima. Noi ormai l'abbiamo visto 7 volte, quindi insomma... Lo seguirete anche all'estero per caso? No, abbiamo fatto con lui a luglio le sue date italiane, adesso appunto siamo di nuovo per questa sessione invernale, chissà in futuro. Posso fare un piccolo spoiler? Maika ha chiesto a Michele di seguirlo in un tour francese, forse. Speriamo. Non c'è nulla di concreto ancora. Però mi sembra una bellissima opportunità, complimenti, perché se ti ha... Vuol dire che ha apprezzato evidentemente le capacità. Ascoltiamoci adesso un altro brano del disco. Si tratta di... Ah, prima non ti ho neanche chiesto poi... Lo zoo. Esatto. Beh, questa canzone l'ho scritta in un posto a me molto caro, che è una casa in campagna dei miei genitori in Sicilia, a Castelbuono, che è un posto un po' magico dove... mi sono successe tante cose e ho pensato molte volte nella mia vita di andarmi a ritirare lì, di chiudere con insomma la follia della vita metropolitana, sai? Forse sei un po' giovane per cominciare a fare sì. questo, ma aspetta presto. Una cinquantina d'anni magari. Insomma, quindi questa canzone sostanzialmente dice: lasciatemi in pace, l'unica compagnia che mi serve è quella di questi animaletti che popolano. E di una buona connessione wifi. Assolutamente. Immancabile. E questo toglie però un pelino di poesia, se mi devo prendono dire, sempre in giro loro perché sono sempre davanti al computer o davanti al telefono. come tutti ormai. E invece il brano che ascoltiamo adesso si intitola Emotional Countdown, un conto alla rovescia emozionale. Sì. Poi dici qualcosa, esperienze personali? O no, guarda, anche caso? Questo, coincidenza che l'abbiamo messi uno dopo l'altro, perché anche questo è stato scritto lì, in questo posto che io chiamo il mio pezzo di bellezza verde. E, beh sì, non posso dire troppo riguardo a questo, perché insomma riguarda cose un po' personali. Ok, allora ce l'ascoltiamo, sono sempre en passant qui a Blu Radio Veneto. Staring dryness of the lips. 6, 7, 5, gonna scare until you cry. 3, 2, 4, cause I'm waiting for your call. 4, 3, 2, I am stuck within a loop. One will never come, and I've been here for so long. Use my fingers or my toes, I can count them to the zero. Emotional. Blue Radio. Dai colore alle tue frequenze. Rock Wave. L'onda del rock. Un finale abbastanza particolare di questo Emotional Countdown, quasi rumorista, diciamo un termine forse un po' eccessivo. Di orizzonte rumorista. Dadaista. Situazionista. È un ista comunque. È tratto appunto da questo album More Than One in Number, che è il vostro primo disco, giusto? Sì, il primo LP. E vedo che è prodotto dalla nonna Anna. Bravissimo. Ma, sì. No, allora c'è scritto Anna, Anna the Granny. Che è il nome dell'etichetta che ha appunto pubblicato il disco. Ah, ok, quindi non è una persona. No, la persona che si cela dietro Anna the Granny è il nipote di Anna, che è Gian Maria Ciabattari, che è il nostro produttore, che è appunto titolare di questa etichetta discografica nata. Appunto anche lei nel 2009, lei, noi nel 2010. Insomma, siamo stati la seconda uscita di Anna the Granny. Ah, benissimo. E il disco è stato frutto di una session veloce? No, devo dire che è stata una bella fatica, durato tra preproduzione e produzione quasi 2 mesi. Di lavori, e come probabilmente insomma si sente già anche da questi ascolti, non è il prodotto di un trio bensì di un ensemble di musicisti piuttosto largo. Cioè abbiamo avuto l'onore di ospitare archi, fiati, tantissimi ospiti, tutti si sono prestati con molta carineria, li ringraziamo ancora una volta per il lavoro splendido fatto. Gli arrangiamenti orchestrali sono di Gianluca Cangemi, ci tengo a dirlo perché ha dato un tocco molto, molto particolare al disco, ha dato un'impronta che insomma soprattutto in alcuni pezzi li ha fatti evolvere molto rispetto a insomma alla nostra formazione di base, quindi anche un disco diciamo con un budget abbastanza importante per gli standard della musica. Sì, ecco, non è un disco lo-fi, non è un disco fatto in casa, e non che io abbia niente contro i dischi fatti in casa, assolutamente, però insomma la nostra scelta è stata di fare un lavoro un po' anche come si faceva una volta, diciamo, in uno studio bello Dunque, sto facendo due conti, direi che se vi va potreste suonarci qualcos'altro. Certo, molto volentieri. Facciamo Cigarettes for Breakfast. Because you smoke them in the kitchen, it doesn't mean 3 cigarettes make breakfast. 3 nights in a row, I was sleepless. Pebbles in my throat, my skin is wasted. My love for you is like a little kitten. Sitting in bushes for piles of dust. Sometimes I seem to eat you alive. It's just because I stayed my dinner last night. Don't call me up this morning, leave me in the state of yearning, so I can linger over it and keep you with me. Don't call me up this morning, leave me in the state of yearning, so I can linger over it and keep you with me. Day in town, scanning places, searching for a proof of our existence. Here's where I was hiding that time. I went away and then I brought you flowers. Do you wanna know what I'm afraid of most? One day we might forget about this all. This morning, leave me in the stage of yearning, so I can linger over it and keep me company. come to you. Cigarette for Breakfast, era questo il titolo della canzone, se l'ho ben afferrato, sì. Perché sul disco non è citata, perché se non vado errato è un inedito. È un inedito, no. sì, non è ancora stato pubblicato. Perché ci sono un paio di canzoni... Nascoste, va bene, per modo di dire, o meglio, c'è un ultimo brano, Lampshade, che dura 27 minuti teoricamente, sì. E invece è una... È una, non so, un'escursione lungo la quale, tipo un videogame, si va avanti finché a un certo punto non si apre uno sportello e viene fuori una canzone. Mi piace questo modo di vederla, davvero. Dai, per cercare di spiegarlo agli ascoltatori, insomma, sembra che ci siano soltanto dei rumori della gente che chiacchiera, anche avete preso rumori ambientali, e poi saltano fuori queste canzoni. Come mai vi è venuto in mente di chiudere il disco con questa? Ma guarda, io sono un'appassionata di Ghost Track, mi piace moltissimo quando in un disco c'è una traccia nascosta, però mi sono sempre chiesta come mai tutto quel silenzio, cioè penso che sia diventato anche un po' un automatismo, insomma, questo aspettare questi minuti e minuti di silenzio. Io ho detto, cosa c'è dietro il silenzio che collega la fine di un disco alle sue ghost track? Ho immaginato questo percorso all'interno di una casa, in realtà, perché poi c'è diciamo che si è come se da un pub affollato, che dicevi appunto i rumori ambientali eccetera, si entrasse finalmente a casa col silenzio della casa, e poi ci sono tutti i rumori che caratterizzano la cucina e il bagno, e ci sono appunto queste canzoni che nascono da lì. È un po' quel dietro le quinte della scrittura di un disco, in qualche modo. Chiaro, è che in questo modo ci sono, mi pare siano due canzoni, se non ricordo male, che sono un po' come, non dico maltrattate, ma insomma, non hanno l'onore della copertina. Però sono in un posto speciale. Questo è vero. Beh, se ti piacciono le ghost track, devi recuperare un vecchio disco che si intitolava Songs in the Key of X, credo. Erano canzoni ispirate a X-Files, dove c'è la ghost track più ghost del mondo, perché si può ascoltarla soltanto andando con l'indietro veloce dall'inizio del CD. Ok, bene, e ce la sentiremo. Penso che molta gente che ha il disco non l'ha mai sentito, che fra l'altro è un pezzo di Nick Cave, quindi non proprio una scartina, ecco. Era una cosa veramente strana, si scopriva facendo la somma dei minutaggi delle canzoni, scoprendo che poi non corrispondeva al totale del disco, una cosa che non è che facciano proprio tutti, ecco. Prenderemo ispirazione, ruberemo questa idea sicuramente per il prossimo disco. Ce lo segniamo, perché sennò non la troveremo mai. Allora, siamo giunti alle 23:01, vi ricordo, questa è sempre Blu Radio Veneto, Rock Wave, abbiamo dal vivo con noi En Passant in trio. Voi suonate sempre in trio dal vivo? Vivo sì, adesso diciamo che da quest'estate fino adesso siamo la formazione live si è strutturata in questo modo. Abbiamo naturalmente una strumentazione un po' più grossa, in particolare Emanuele non è relegato soltanto al suo synthesizer. Sì, c'è una batteria elettronica, delle tastiere, delle cose. Un po' complicato da spiegare. Sì, ma è anche da montare qui nel nostro studio. Capisco che notavo è molto interessante il contrabbasso, che può essere usato anche come violoncello, diciamo. Sì, esattamente. Per come avete sentito. Come qualsiasi contrabbasso, in realtà. Non è strutturalmente diverso, a parte la trasportabilità. Sì, è appunto, però no, dicevo che è un'ottima cosa averlo, perché vi permette di variare parecchio. Rispetto a un basso, sì, sicuramente. Sì. Siamo anche in webcast, se qualcuno vuole vedere questo misterioso strumento, è quello che tiene in mano il ragazzo con la barba. Misterioso. Beh, diciamo che non si vede tutti i giorni. Ecco. Proseguiamo con... volete fare un altro pezzo dal vivo? Volentieri. Se va bene a voi, figuratevi, per noi è il massimo. ce lo puoi annunciare? Certo, si chiama Bless ed è contenuto questo nel disco. Ok. The one you won't see anymore, and cherish the memory. Don't let it waste, don't let it waste. Bless whatever my eyes will meet, and hold the impressions you captured with me. Nothing compares to what we had, but my days set me free. Bene, questa era Bleed. Bless. Bless, oh scusa, non vedevo molto bene quel titolo. Sono sempre gli En Passant qui su Blu Radio Veneto per Rockwave, i nostri appuntamenti con la musica dal vivo che si susseguono. Abbiamo sempre più riscontri per questa cosa, quindi ci fa molto piacere anche, e penso appunto che anche per i nostri ascoltatori sia sempre un qualcosa di diverso dal solito ascoltare la radio. Insomma, la musica dal vivo è un'altra forza. Eh sì, è un'altra cosa, è proprio io amo i programmi radio in cui si dà spazio alla musica dal vivo, anche perché suonare in radio è una cosa ancora diversa rispetto a suonare ovviamente davanti a un pubblico, cioè vengono fuori cose totalmente diverse. Ah, questo non me l'aveva mai detto nessuno, non so. Almeno magari solo per noi, chissà. No, in effetti sì, capisco che è una via di mezzo tra quando provate e quando suonate. Sì, ci possiamo guardare e dirci, oh, qui no. Anche perché c'è luce qui, contrariamente ai palcoscenici. Esatto. Beh, questa è la tua prima esperienza musicale? Sì. Ti faccio la domanda adesso agli altri due, che forse hanno invece più passato. Sì, per me no, non è la prima. Diciamo che io ero e tuttora sono anche un musicista che si presta a molti tipi di formazione jazz, soprattutto dove c'è molta promiscuità, di solito non c'è una grossa fedeltà a un progetto in particolare. Però sono contento di fare parte invece di questo gruppo in cui appunto c'è tutto quello che mi manca da questo punto di vista, cioè l'appartenenza, il fatto di vivere nel bene o nel male tutto quello che riguarda insomma la vita di un gruppo specifico. Una continuità, insomma. Esatto, sì. Io invece, vabbè, da quando ho 12 anni ho partecipato a parecchi progetti, però molto, molto di ricerca. Partivamo quasi tutti dal metal, quindi roba di metal. Beh, ora più o meno vedo che... sì, uguale. Ora invece sto studiando elettroacustica a Bologna, mi sta interessando parecchio e sto cercando di sviluppare anche quest'altra dimensione. Scusa la mia profonda ignoranza, stai studiando elettroacustica? Sì. E significa che una volta che l'hai finito diventi un... compositore elettroacustico. Non sapevo neanche che esistesse questa cosa. È come hai definito il pezzo, il finale di Emotional Countdown, che hai detto è un po' elettronico, non mi ricordo. Un po' rumorista. Ecco, quello è una base, un principio dell'elettroacustica, quel modo di fare musica, diciamo. Ok, non fai anche il rumorista nei film, per intenderci. Sì. Ah, anche. Ecco. Il sound designer è uno dei miei compiti. Si chiama sound designer, sì, sì. Capisco che insomma fa molto più effetto che dire rumorista e d'altra parte insomma io sono un DJ, non sono un conduttore radiofonico, perché si sa che bisogna dirlo in inglese per fare un po' la scaletta adesso prevede un altro estratto dall'album, così intanto vi riposate un attimo, non che siate particolarmente stanchi, ma insomma il brano si intitola You Are Music. Anche qui tu non vuoi dirci niente delle canzoni, chi è questo che... Beh, io lascio l'interpretazione a chi ascolta, sarebbe troppo facile se io dicessi questo pezzo parla di... Sì, dobbiamo sempre tenere conto del fatto che è vero che i nostri ascoltatori sono tutta gente di una certa cultura, però magari... No, di questo pezzo posso dire, ecco, per salvare, insomma, trovare un compromesso, che è stato insomma il primo estratto da questo disco, diciamo che contemporaneamente all'uscita del disco abbiamo realizzato questo videoclip con un videoartista fiorentino che si chiama Leonardo Betti. Appunto, che ha fatto una bella opera di videoarte su questo brano, e naturalmente si può trovare sia su YouTube che su Vimeo, che su tutti i nostri canali, basta andare anche sul nostro sito, che è www.unepassante.com, l'ho detto come si scrive, e da lì poi si trovano tutti i link. Naturalmente vi consiglio di andarlo a vedere perché è molto bello. Bene, allora in attesa di andare a vedere il video, ascoltate la canzone che si intitola You Are Music. In the cold. You are music, and music is you. You are music, and music is you. SMS 346 2320 033. Radio Veneto. Rockwave, l'onda del rock. Your Music era il titolo di questo brano, dell'arrangiamento molto sofisticato, complesso, sì, anche direi. Grazie. Non so, mi ricordava certe cose dei, all'epoca lo chiamavano dark, ma in realtà forse no, di poi tipo Dead Can Dance, This Mortal Coil, forse non li avete neanche mai sentiti. No, sentiti nominare ma mai ascoltati. Consiglio, diciamo che sì, si parla ormai di musica un po' vecchiotta, perché era di metà degli anni Ottanta, se non mi ricordo male. Emanuele annuisce, sì, quindi lui... Anch'io Dead Can Dance. Ecco, tutti, ovviamente. Erano più sul folk, se non sbaglio. Sì. Beh, dipende dai dischi. Avevano anche la dimensione elettronica, un periodo new wave, in effetti. Sì, infatti avevano appunto questa miscela di varie influenze. A volte anche gotici. Certo. Molto gotici, sì. E venivano appunto chiamati dark, secondo me, perché mancavano definizioni migliori. È molto difficile incasellare la musica, anche nel vostro caso farei abbastanza fatica. Penso che sia un bene, volendo. Sì, sì, beh, sì, sicuramente. Tranne il fatto di quando trovi un amico che ti chiede: oh, ma che fai? No, oppure gli dici: ho avuto ospiti in radio questo gruppo, e che musica fanno? E ti trovi un attimo così imbarazzato, perché è molto più facile incasellare le cose, no? E volevo chiedere un'altra cosa. Questo progetto, così sentendolo, mi sembra che sia, che nasca con una voglia di andare fuori dall'Italia, anche fuori dall'Italia, insomma. Sì, non è assolutamente escluso. Ora, su questo disco non abbiamo lavorato all'estero, cioè la promozione è stata mirata soprattutto all'Italia, ma anche perché appunto io sono una novellina del campo, assolutamente, l'etichetta è appena nata, quindi stiamo insieme muovendo i primi passi per capire anche come funziona il business della musica, che insomma è un campo spinato. Se funziona. Appunto, se funziona. Dicendo, non funziona. No, ma assolutamente la voglia di andare fuori dall'Italia c'è tutta, perché non vedo appunto, cioè viviamo in un'epoca in cui proprio questo tipo di barriere per fortuna non esistono più, ecco. La nostra musica, penso appunto per il fatto che in inglese non ha diciamo barriere precostituite, starà a noi chiaramente riuscire a esportarla. Sì, notavo anche così proprio dal punto di vista dei suoni, delle atmosfere, sicuramente siete un gruppo, fate musica europea, perché non ci sento, c'è sempre questa distinzione di base, diciamo, ecco, gli americani anche quando fanno cose sofisticate hanno sempre questa base di blues che riaffiora perennemente, no? Magari poteva succedere perché avendo un bassista che viene dal jazz, quello è un mondo più americano, però in realtà io sento molto stranamente. Beh, il jazz parla molto europeo ultimamente, forse. Non sono esperto, nell'ultimo, quindi se lo periodo. Dici tu. Sì, vanno, il jazz europeo ormai è considerato tra i massimi, proprio. Beh, già da molto tempo. Sì, beh, so che abbiamo anche in Italia dei musicisti molto, assolutamente, molto quotati. Assolutamente, però, tra i migliori. Come suoni, ecco, il jazz derivando dal blues può essere più. Io sento molte atmosfere francesi nella vostra musica, anche se non so bene il motivo, forse sono suggestionato dal fatto che hai vissuto a Parigi. Ma guarda, sì, ma forse io chiaramente faccio fatica anche a decodificare le influenze che mi sono, non sarebbero influenze altrimenti sarebbero studi, però non sei il primo che dice una cosa del genere. E il fatto che no, probabilmente il fatto che appunto io ho iniziato a scrivere musica senza alcuna appunto base senza alcuna conoscenza tecnica, proprio quando, poco prima di trasferirmi a Parigi, e lì a Parigi sono stati concepiti poi molti dei pezzi che sono finiti nel disco. Quindi frequentavo musicisti parigini e evidentemente qualcosa si è infilato sotto pelle nel mio vocabolario, senza magari che io lo facessi in modo cosciente, ecco. Forse anche il modo di cantare può ricordare un po' certi cantanti francesi. Non sto parlando di Carla Bruni, naturalmente. Okay. No, ma poverina, povera Carla. Tanto brava figlio. Allora, adesso mi dicevi, farete una canzone, una cover. Sì, faremo una canzone che non è nostra, è un pezzo degli Animal Collective, dal loro disco Meriwether Post Pavilion. Che è un disco che ha avuto un gran successo, riscontro di, sì, secondo me meritato, secondo me meritato. Bene. Gli rendiamo omaggio. E il titolo della canzone è Also Frightened. Perfetto. Entering our way through the dark, where we can slip, one takes one by the hand. Let them crawl into the logs, dead down brown, change the hue of their pants. Exciting and screaming, their voices grow wild, and rise with the birds, mating up in the pines, down to puddles that breed, covered by leaves. With mud, they'll make prints on their back. But how will it be just like their dreaming? Will it be just like I'm dreaming? Will it be just like they're dreaming? Will it be just like I'm dreaming? But how? If they're awake till the dawn, well, we won't fret the day, don't ever I. Wolves came crowding around, and then I woke, you slid there on your side. From our window, two lanterns throw signs in the night, and lighter two shadows I watch with delight. Will I want them to be who they will be, or to be more like their dad? But how will it be just like their dreaming? Will it be just like I'm dreaming? Will it be just like their? Maybe I should lay down. Maybe we should lay down. And I have a question. And are you oh so frightened? And are you oh so call you a dreamer. No one should call you a dreamer. No one should call you a dreamer. Also Frightened era il titolo di questo brano, e come spesso accade quando qualcuno fa una cover, ho l'impressione che tu cantassi in maniera diversa rispetto alle canzoni che scrivi. No, perché questo pezzo mi porta a fare delle cose che normalmente non faccio nei miei, che evito, e mi piace per questo farlo. Appunto, la domanda è appunto perché le eviti? Non saprei, è una domanda che mi mette molto in difficoltà, però è una cosa su cui sto riflettendo, perché non è da tanto che abbiamo messo su questa cover, e mi sono accorta appunto che ci sono per fortuna ancora dei territori inesplorati nella mia vocalità, che spero bene, è cominciato da poco. Poi in effetti sarebbe abbastanza assurdo fare come cover un brano simile ai vostri, insomma. Esatto. Diventerebbe una ripetizione quasi. Ma tu hai preso lezioni di canto? Io ho preso lezioni di canto per un anno quando avevo 14 anni, così, perché mi piaceva cantare. Nel 2008, insomma. Sì. Grazie. appunto, quando ero piuttosto giovane. Poi non ho più studiato. Si sente, vero? No, non direi proprio. Non era un rimprovero. No, è che appunto non riuscivo a capire, hai detto che non hai suonato con altri gruppi prima. No. E avete cominciato da poco, e cioè, mi pare strano che tu non abbia esperienza sentendoti, l'impressione. Beh, è invece... L'esperienza l'ha fatta secondo me proprio facendo il disco, e ha avuto un'evoluzione pazzesca, lo dico. Noi l'abbiamo potuto apprezzare. No, io sempre fin da bambina ho avuto la passione, cioè cantavo da piccola proprio davanti alla famiglia, così, ma ecco, non più di quello. Ho due fratelli più grandi che mi hanno trasmesso la passione per la musica, perché appunto vivendo a casa con i nostri genitori eccetera, io dal muro che divideva la mia stanza dalla loro sentivo, in realtà ero a metà tra uno e l'altro, avevano due culture musicali molto diverse e me le hanno inculcate. È già una fortuna che non sei finita. Io che ascoltavo Hanno ucciso l'uomo ragno, e dall'altro lato arrivavano invece i Doors, magari, piuttosto che i Pink Floyd. Però anch'io prima, poi, insomma, dopo mi sono evoluta. Interessante la situazione familiare, vabbè. Cioè, ci sono situazioni peggiori, ci sono famiglie con un figlio di estrema sinistra e uno di estrema destra, e quello, ecco, no, può essere ancora peggio. Almeno non credo che i tuoi fratelli si picchiassero per i gusti musicali. Per molte altre cose, sì. Ciao Antonio, ciao Francesco. Questo era... Va bene, ascoltiamoci un altro brano dall'album, che vi ricordo si intitola More Than One in Number. Vi ricordo anche che i nostri ospiti questa sera si chiamano En Passant, per chi si fosse messo in ascolto così recentemente. Sono questo trio che ci sta intrattenendo magnificamente con la musica dal vivo, ma appunto adesso ci ascoltiamo un brano invece dall'album, è un pezzo che si intitola Living. Thank you. The wind is blowing, the ship is rolling. The wind is blowing, the ship is rolling. So I'd fly if I could invite the black strategies of your pride. Drops of your eye, well I grabbed to a fly. Now I wish you goodbye, but you cannot untie my mind. My cold will dissolve before reaching the shore. My soul will blend with the foam. The thrills and the lows will all sink down like stones. The sun will find me alone with the words I haven't told. With the words I haven't told. Words I haven't told. Now that your waves and waves away, at my back you'll reflect the shame. Still I'm the one who was living. You're the one who will stay. The wind is blowing, the ship is rolling. The wind is blowing, the ship is rolling. Away, no, it keeps rolling away. It keeps rolling away. It keeps rolling, it keeps rolling. Radio. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 23 20 033. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Allora, abbiamo ascoltato questa Living, uno dei pezzi più complessi, direi, dell'album. Sì, è un brano che ha due autori, ecco, oltre me, insomma c'è anche Guido Masi, che è il chitarrista elettrico che ha suonato in tutto il disco, e appunto che ha curato la parte musicale, io ho scritto il testo. E... Beh, visto che prima parlando dei fratelli così, ci hai raccontato un po' della situazione, parliamo un po' delle tue influenze. Immagino che col fratello che ascoltava gli 883 non avessi poi... No, ero io quella che ascoltava gli 883. No, a casa, cioè sono sempre stata quella che ascoltava la musica peggiore fino a un certo punto. Io avevo capito che fosse uno dei due fratelli. Che... No. Le mie influenze, oltre appunto gli 883 che si sentono tantissimo nel disco, assolutamente... Chi altro c'è? No, dai. No, ecco, io sono cresciuta con i Radiohead, sono stati il gruppo che mi ha aperto gli occhi sulla musica, ma anche su tante altre cose. Cioè, trovo che siano un gruppo veramente completo, che siano significativi da ogni punto di vista. E Poi, appunto, grazie a Michele ho fatto un altro incontro rivelatore, che è stato quello con Robert Wyatt, che mi ha... Stavo notando, ecco, appunto l'adesivo a sulla, cui rendo sulla chitarra. Con la mia chitarra. E poi in realtà, appunto, io ascolto anche molto la scena alternative folk contemporanea, ci sono delle cose che mi piacciono molto, come Andrew Bird, Sufjan Stevens, per parlare di cose appunto un po' più, più recenti, e così anche i local natives. Però ecco, se proprio devo dire quello, il gruppo che mi ha influenzato di più, i Radiohead su tutti, davvero, non c'è paragone con nessun altro. Sono sicuramente il gruppo più importante degli ultimi 10 anni nel mondo del rock, sì. Sia musicalmente sia per il modo in cui hanno gestito la loro carriera, per tante cose, oltre che la qualità media dei loro dischi, sono riusciti a tenerla veramente elevata. Sì, alta. Possiamo aspettarci una cover di Creep, tanto per... No, in realtà già fatta Vasco, direi, no, che quello ci bastava. Stavo dicendo, era per cercare un attimo di ripianare quella incresciosa situazione. No, in realtà ci capita di fare ogni tanto un pezzo dal disco solista di Thom Yorke. Facciamo Atoms for Peace. Questa è una scelta un po' snob, se vogliamo. Certo, surcigliosa. Surcigliosa, come... Con il sopracciglio alzato. Esatto. Questa è una parola che non conoscevo. No, in realtà questa parola è una traduzione che Umberto Eco ha fatto dell'aggettivo inglese eyebrow. A me piace molto questo surciglioso, mi sembra una traduzione efficace. Sì, più che altro perché è una di quelle cose inglesi che... come alternativa avresti di tradurla con una frase, esatto, di 2 righe. Esatto. Esatto, quindi in effetti me lo assegnerò anche questa. Cosa suonate adesso? Posso chiedere? Facciamo Woodworms, anche questa inedita. Benissimo. Rockway, l'onda del rock. searching for comfort on the cloud. Yet every time I fall, but this body awakes and turns more. It wastes and turns more. Searching for comfort on the clouds. Yet every time I fall, waste and tones more. It wastes and tones more. En passant al vivo qui su Rock Wave, il titolo della canzone non me lo ricordo. Woodworms. No. Woodworms, i vermi del legno. Tarli, sì, sì. Ah, è tarli. Tarli proprio, sì. È una canzone inedita, quindi sì? Nuova. Quindi sì. Che andrà nel prossimo disco. Oh, volevo arrivare. Quindi è già abbiamo già del materiale. Programmato i tempi del nuovo disco? No, quello ancora no. Devo dire, non abbiamo tutta questa fretta. Non siamo per... facciamo un disco all'anno presto, perché sennò perdiamo l'attenzione. Non importa. Quel tempo che ci vuole, ci vuole. Abbiamo già del materiale, su cui però appunto c'è ancora tanto da lavorare. Tanto. abbiamo... significare che questi brani li stai componendo anche in collaborazione con altri? Certo, il lavoro musicale è collettivo. Magari io, quello che succede è che magari io scrivo una canzone e poi si ragiona insieme sulle parti, sui arrangiamenti, si cambiano armonie, insomma si fa un lavoro insieme. In questo appunto adesso con Michele Emanuele, prima con altre persone che hanno appunto collaborato al disco, come Guido Masi, come dicevo prima, Simone Sfameli, insomma sono tantissimi. Quindi sì, adesso io e Michele sarebbe Emanuele... da raccontare il perché tutti questi personaggi che poi... No, sto scherzando. Ecco, loro sostengono che... No, per ora noi va bene, noi siamo ancora qui. Loro sono ancora qui, chissà ancora. Per risulta quanto. Un discorso un po', come dire, criptico per... Sì, ma infatti era solo così per metterla in difficoltà. Per provocarmi, si divertono molto. C'è qualche sottinteso qua che non vuoi dirci? No, ci sono stati diversi cambi di formazione, questo voleva dire. Sì, niente di misterioso. Come si può vedere dal disco, tra l'altro. Ah, sì, sì, beh, infatti ho letto anche la storia, ci sono stati un po' di così cambi, ma è una cosa... penso normale. Sì, ecco, non è che sia proprio così. C'è qualche band che resta insieme per... Come i Radiohead, per esempio, mai un cambio di formazione. Beh, i REM... Forse dovrebbero, forse è arrivato il momento anche per loro. O gli U2 sono insieme da quando erano ragazzini, insomma. Infatti. C'è chi tiene duro, i Rolling Stones si picchiano una volta alla settimana, però sono ancora insieme, almeno il nucleo, ma la maggior parte degli altri musicisti vedo, insomma, che... Insomma, si sa, la vita porta poi a scelte. Sì, ma poi non sono necessariamente appunto abbandoni, si fa una parte del percorso insieme e poi magari ci si incontra. Io penso che, voglio sperare almeno, che alcune persone che hanno collaborato More Than One in Number avranno il piacere di collaborare nuovamente, e quindi insomma... Potrà sicuramente succedere. Poi si sa, in certi casi i musicisti restano insieme soltanto per ragioni puramente commerciali, perché rende. Ma fortunatamente noi ancora possiamo permetterci di non interessarci a queste cose, ecco, grevi. Vi auguro che possa succedere presto anche a voi. Insomma, che non è una cosa che si fa può solo per l'arte, negativi, ma anche qualche lato piacevole, ecco. Ma, a tal proposito, come vedi un po' la situazione così a livello di club, di tournée, tu che sei, senza offesa naturalmente, ma un po' una novellina? Certo, no, per me è tutto nuovo, è tutto. Ogni volta che vado, che abbiamo l'occasione di suonare in un locale bello, mi sembra una cosa meravigliosa. Come insomma in questi giorni abbiamo avuto occasione insieme a Maika di suonare in posti splendidi come il Bronson, la Salumeria della Musica a Milano e domani al Teatro Remondini. Appunto Non è sempre così, non è sempre, purtroppo non si suona sempre nei posti predisposti che nascono con l'intento di fare live, eccetera. Ci sono dei posti assolutamente improvvisati dove ciò non toglie che si possano fare concerti bellissimi, il pubblico sia calorosissimo, eccetera. Però appunto io ho visto, ecco, non ho... ho l'esperienza appunto della vita live di Londra e di Parigi per quello che l'ho vista, insomma, non... anche lì ovviamente ci sono locali dove che nascono per la musica dal vivo e altri più improvvisati. Magari qui in Italia mi sembra che si stenti a capire che fare live è una cosa imprenditoriale, no? È un'attività imprenditoriale per cui trovi sempre il proprietario del pub di turno che ti dice magari appunto non è venuta abbastanza gente, non posso pagarti, come se fosse mio il locale, cioè il rischio di impresa mio, no, io sono quello che tu compri per far andare bene la tua impresa. E invece insomma questo si stenta un po' a capire purtroppo. Sono storie vecchie. Infatti, sono cose che... per me è tutto nuovo, mi indigno ancora per queste cose. No, poi quando è stato un paio di settimane fa abbiamo avuto qui Giancarlo Onorato, che ha un'esperienza musicale con gli Underground Life, era una delle prime formazioni New Wave italiane, quindi ha cominciato a suonare alla fine degli anni 70. E a lui ho chiesto... le differenze che trova adesso, perché all'epoca il disco usciva solo in vinile, cioè c'era tutto, certo. E ho visto che però appunto lui ha fatto un disco con una bella confezione, ha curato tutto un po' alla vecchia maniera. Ho l'impressione che anche voi abbiate fatto la stessa cosa, cioè nell'era dell'MP3 avete dato comunque importanza all'oggetto fisico. Sì, ora questo è un discorso appunto un po' controverso, perché io appunto abbiamo scelto di fare questo oggetto da insomma, che è piuttosto bello, tutto in cartoncino riciclato, ci sono delle illustrazioni, è molto curata la grafica, ringraziamo Benedetta Ciabattari per averla curata per noi, però ecco, è chiaro, abbastanza evidente che l'era del supporto fisico per la musica è arrivata un po' agli sgoccioli. Ora chiaramente non possiamo prevedere il futuro, però questo ritorno del vinile è un po' il canto del cigno del supporto fisico per la musica, no? Io spero che il vinile continui assolutamente che questa rinascita sia qualcosa di serio. Anch'io io ho cominciato adesso, non posso dire ho ricominciato a comprare i vinili perché la mia età anagrafica mi smentirebbe, però dico ho cominciato adesso a comprare i vinili perché effettivamente la musica in vinile ha una ragione, cioè il supporto fisico vinile dà qualcosa, un tipo di calore alla musica che il CD non dà. Non c'è una differenza tra un file ad alta definizione e un CD, per cui il CD insomma ha CD fatto anche un po' la sua molto storia, molto brutto come oggetto obiettivamente rispetto a un vinile. Sì, vabbè, però è sempre meglio di un MP3 questo, di un MP3 assolutamente. Però io penso che appunto non potendo prevedere il futuro, però facendo delle appunto delle previsioni un po' larghe, con il progresso tecnologico e la possibilità di velocizzare ancora di più i trasferimenti di dati e la miniaturizzazione poi degli hard disk eccetera, si possa invece di avere una collezione di MP3 avere una collezione di file di Wave. Ottima qualità, non compressi, che sono assolutamente identici a un CD, quindi insomma a quel punto è un buon compromesso avere magari una collezione di vinili per l'ascolto più così più caldo, però poi per la musica un po' insomma più di consumo, anche per il piacere di vedere la copertina, soprattutto che le copertine, certo, sono crollate qualitativamente dall'avvento del CD. Sì, beh, una bella copertina di una volta su un CD non rende proprio, è tutta un'altra logica che ci sta dietro. Eh beh, questo è un discorso ormai ampiamente dibattuto. Sono stati fatti dei tentativi notevoli di invenzioni per fare dei CD che avessero un aspetto grafico migliore, con delle cose che si aprono. Come il nostro, che si apre tutto, che è molto bello. Appunto, si apre moltissimo, si apre in modi impensabili. È immenso. Una bozza ci vuole per portare. Ok, andiamo adesso con un altro brano, appunto, visto che abbiamo parlato di questo CD, il brano Wreckage, mi pare. Sì, che apre il disco. Perfetto. days have gone, they left me here, wearing the same old smile. Changes don't show while they appear, they're bound to stand. Different colors bear the walls, the same old sorrow cracks the soil. No one's happy with what they have, no one's happy with what they have. Youth is cold like a silent flood, it won't care for the wreckage, it will deny its ghost. The blood I'll have in my track. If I get old, I won't look back. It's the blood I'll have in my track. Well, that was in dull, breaking bones, bones ruptured. Major taste the chances blown, but won't sicken me. It won't bother me at all. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Allora, questo brano era Wreckage, che apre l'album e quasi chiude la nostra trasmissione, e avete scelto un brano riflessivo per aprire l'album. Sì, è un po' vuole essere un modo per far entrare nella dimensione sonora del disco. Si è molto, appunto, atmosferico, è un ingresso soft. Sì, a volte invece come primo brano si cerca il pezzo d'impatto, ma perché una volta forse serviva, perché appunto c'erano i vinili, la gente andava nel negozio, li mettevano su un pezzo da sentire, era doveva importante. Doveva catturare l'attenzione. Adesso forse anche questo è una cosa un po', sì, fuori moda. Allora, riepiloghiamo un po' le cose. Con noi questa sera en passant, in trio, hanno suonato dal vivo, suoneranno ancora una canzone per augurarci la buonanotte. Domani sera li potete trovare a Bassano, al Teatro Remondini, insieme a Mike P. Hinson. Quindi se avete l'occasione e la possibilità di andarci, è veramente un concerto da non perdere. Anche. Per Maika soprattutto, per noi, insomma, per tutto, insomma. È bello anche, magari uno va per vedere appunto l'headliner, l'artista di richiamo, ma come supporter trova un prodotto di qualità, una band che suona bene e che sa intrattenere il pubblico. A volte ho fatto delle scoperte in questa maniera, insomma, dei musicisti di cui poi ho comprato i dischi e di cui non avevo mai sentito nominare. A questo proposito, pubblicità. Chi vuole, esatto, angolo pubblicità, chi insomma si fosse divertito ad ascoltarci questa ora e mezza e volesse appunto comprare il nostro disco, può farlo sul nostro sito, che è www.unepassante.com. Lì c'è la sezione appunto shop, oppure chi volesse semplicemente riascoltare qualche pezzo gratuitamente può andare sul nostro MySpace, che è www.myspace.com/unepassante, e aggiungeteci anche su Facebook, basta cercare Unepassante sul motore di ricerca di Facebook, c'è la pagina con tutti che è la cosa più aggiornata, insomma, quotidianamente per seguirci ovunque. E aggiungo anche che fra pochi giorni sarà disponibile in podcast questa trasmissione, come succede per tutti gli appuntamenti live di Blu Radio Veneto. C'è il link sul nostro sito, che è appunto www.bluradioveneto.it, e potete riascoltare la trasmissione o farla ascoltare a chi malauguratamente l'avesse persa. Allora, noi come al solito chiudiamo la trasmissione, auguriamo la buonanotte ai nostri ascoltatori, o meglio, augurate voi la buonanotte. Buonanotte ascoltatori veneti. con una canzone che sarà... Che si chiama Life of a Passerby. Perfetto, allora su questo brano grazie, buonanotte. Grazie a voi naturalmente per essere stati qui con noi, grazie ai nostri ascoltatori per averci ascoltato e alla prossima. Ciao. Siete sempre i benvenuti. Ciao, grazie. You crown me I won't allow this outrage ever again. No, oh, oh. Your violating me is not that I'm disliking it, but you don't know the danger you're in now. Hey man, don't you think it's a little loco? My body's shaking as I've seen a ghost. Died, I'm died, died, died, I'm died, died, I'm died. Was it chance or fate? Admitted the same. The road is a place where no one is safe. But I went on straight, committed to my way. But soon again, I turned to the back. The crown man was gone. Was he ever there at all? Born and devoured on the boulevard. All that is left. A sort of bitter taste, always sure that I will never forget. Is I, I, I, I, I, I, I.